perché la festa di oggi è una festa molto bella, l'esaltazione della Santa Croce. È una festa che ha una tale forza che viene assunta nel calendario, cioè che vince sulla domenica, perché è una festa di Gesù. E si vede che la Chiesa proprio ritiene che sia molto importante che noi meditiamo sulla croce così, dedicandogli tutta una giornata, tutta una domenica, quella croce che noi contempliamo il Venerdì Santo e poi sempre, no? Però ecco, in un giorno come questo, ci soffermiamo più a lungo sul mistero della croce e sulla sua bellezza, perché esaltazione significa varie cose, ma significa anche che Dio ha esaltato Gesù proprio perché ha vissuto, perché si è donato a noi sulla croce, no? E io, anche se poi oggi forse mi immagino nell'omelia della messa avrete ascoltato alcune considerazioni, però penso che possiamo cominciare a considerare questo mistero della croce con la luce delle parole di Gesù, che diceva, vi ricordate, poche ore prima, secondo il Vangelo di San Giovanni: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Per cui anche quando volessimo riflettere un po' su come noi aiutare i nostri amici, servire i nostri amici, anche vivere l'amore d'amicizia nella fraternità, e noi ci riferiamo a te, Gesù, come modello, no? Vi ho chiamati amici perché ho fatto conoscere tutto quello che il Padre mi ha detto, ma che poi è proprio Lui, la sua parola, no? Gesù Cristo come parola del Padre che si è fatto conoscere a noi, quindi ci ha fatto conoscere Dio, il volto del Padre. E possiamo dire così, Gesù, che nel tuo lasciarti portare alla croce ci fai conoscere un'altra dimensione del volto del Padre, per noi assolutamente impensabile, no? Cioè che Dio Padre è capace di dare la vita per noi, no? Anche se sulla croce è il Figlio che muore, no? Però è tutta la Trinità, è tutto Dio che ci dice: guardate che io vi amo fino a dare tutta la mia vita, fino a morire per voi, no? Era qualcosa che nell'Antico Testamento non si poteva, io penso, immaginare, no? Arrivarono ad avere la rivelazione di questo servo di Yahweh, del servo di Yahweh di cui parla Isaia, che avrebbe dato la sua vita così, no? Però che fosse Dio stesso non potevano arrivare, Dio che è puro spirito, per loro che è totalmente diverso da noi che siamo sue creature, che abbiamo un corpo. Dio invece, entrando nel mondo, Gesù dice, con il dono dell'incarnazione dice: un corpo mi hai dato. Il corpo che Gesù Cristo ha preso è lo strumento dell'amore. Quindi Gesù ci ama con il suo corpo, stando in mezzo a noi e parlando le parole degli uomini e facendosi contemplare come essere umano che è pieno della pienezza di Dio, e poi dandoci da mangiare il suo corpo, e alla fine consegnando il suo corpo sulla croce come lo sposo dona il suo corpo alla sposa, certo in un modo cruento, in un modo che gli uomini, considerando la volontarietà di questo gesto, il fatto che l'avesse scelto, che per questo battesimo sono venuto. Gli uomini, considerando la volontarietà di questo gesto, non possono dubitare della totalità dell'amore. Pensate che questo collegare la croce di Cristo, il suo sacrificio sulla croce, all'amore è una realtà molto importante. Noi la leggevamo nel Vangelo di oggi, quando quando Gesù a Nicodemo dice che questa necessità, no, di essere innalzato il figlio dell'uomo come quel serpente di Mosè, no, nel deserto, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Allora noi chiediamo a Gesù che di riuscire, con la grazia anche dell'intercessione di Maria che sta lì sotto la croce, di riuscire a mettere molto in evidenza questa, la chiave di lettura dell'amore è nel guardare la croce, anche perché questo ci aiuta a comprendere la chiave di lettura vera, cristiana, cioè di Cristo, di ogni sacrificio che a noi può essere chiesto, che noi desideriamo fare per amare i nostri fratelli, i nostri amici, le persone care, e in fondo tutti i figli di Dio che lui chiama la salvezza, che è la chiave dell'amore. Cioè, il sacrificio ha significato solo nell'amore. E noi chiediamo al Signore di ricordarcelo quando scegliamo la strada del sacrificio, che è un atto d'amore. Quando ci accade di dover soffrire senza averlo scelto noi, che tu Gesù tu ci dia la grazia, nella nostra preghiera possiamo considerarlo, di scoprire che in fondo quella chiamata alla sofferenza che ci può accadere lungo la vita ha un significato, prende significato vero e unico nell'amore e dall'amore. Così dovrebbe essere un po' più agevole, un po' più facile, un po' più dolce abbracciare la croce, anche se è sempre necessaria la grazia del Signore. Quando io sarò innalzato da terra, questo è il primo significato dell'esaltazione, è quando sarò esaltato da terra, e Gesù fa riferimento, penso, nelle sue parole a quell'episodio dell'Antico Testamento, quando il popolo protestava perché non c'era né pane né acqua ed erano nauseati dalla manna. E allora il Signore fa una cosa che a noi oggi sorprende, e io penso che dopo che ci ha mandato il figlio Gesù non farebbe più una cosa di questo tipo, no? E mandò serpenti brucianti che mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Penso che faccia parte, possiamo dire così, di quel linguaggio di Dio adatto alle menti di quel tempo. Avevano forse bisogno, no, di questi linguaggi così forti per capire, la logica del peccato e della salvezza, no? E allora a quel punto si rendono conto, no? Abbiamo peccato, abbiamo parlato contro il Signore e contro di te, supplica il Signore, Mosè, che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta, chiunque sarà stato morso lo guarderà, resterà in vita. E io penso che questo insegnamento del fatto che il Signore non ci toglie i serpenti velenosi, no? Non, che detto in modo più profondo e in termini della storia della salvezza, tu Gesù, quando hai compiuto il tuo sacrificio sulla croce, sei morto e poi risorto, non hai deciso insieme con il Padre e lo Spirito Santo di eliminare dalla nostra vita la possibilità del peccato, oppure di eliminare la possibilità della tentazione, oppure di eliminare le difficoltà, il dolore. In realtà hai trasformato tutte queste cose in occasione di salvezza e in occasione d'amore. Per cui ci lasci la presenza di serpenti, la presenza del serpente antico che ci può tentare verso la superbia o l'invidia o insomma tutto l'egoismo o la, e, però ci dai anche la possibilità della salvezza che è questo tuo essere innalzato. Gesù dice: chiunque crede in lui abbia la vita eterna, e l'Antico Testamento dice: chi lo guarda. In effetti anche noi possiamo guardare Cristo, non solo credere in Lui, ma guardare Cristo, no? L'esercizio, come si intitola un libro di esercizi spirituali di Cardinal Ratzinger, guardare Cristo, no? L'esercizio di contemplare Gesù sulla croce, possiamo farlo, possiamo vedere se anche a noi nella contingenza di una puntura subita, di una puntura che può essere appunto un dolore, anche una sofferenza, una punzecchiatura piccola ma che fa male, una mancanza di carità che abbiamo subito, una mancanza di comprensione, una mancanza di giustizia, oppure semplicemente uno dei dolori che accompagnano la nostra vita, se noi, oppure anche l'aspetto invece che vediamo più vicino al peccato, la tentazione, il peccato, se noi quando siamo feriti da questi serpenti possiamo cercare di guardare Gesù, il crocifisso che sta sull'altare, il crocifisso che abbiamo tra le mani, parlare con Lui, guardarlo, baciarlo, metterci dentro le sue piaghe come facevano i santi, no? Quanti santi hanno ricevuto dialoghi da Gesù sulla croce, no? E quante persone, penso a San Francesco, penso a Santa Gemma Galgani, ma tantissimi altri, quanti si sono convertiti davanti a un crocifisso, quanti hanno scoperto la loro vocazione cristiana guardando Gesù. E questa mattina mi tornava alla mente un episodio di un signore che aveva un suo grande amico che era scultore, e però senza la fede, e alla fine, insomma, dopo tanti anni di amicizia, gli chiese il favore di scolpirgli un crocifisso. Un crocifisso, penso che fosse anche un crocifisso tascabile, una piccola opera, e questo scultore, per riuscire a fare bene quell'opera, si lesse il Vangelo, ha avuto la passione del Signore, no? E nello scolpire Gesù si convertì, cioè il Signore gli donò il dono della fede proprio nell'atto di scolpire e di cesellare, insomma, il corpo di Cristo e la sua piaga. Allora possiamo provare. Possiamo tenere a portata di mano il crocifisso e provare a fare questo gesto di guardarlo. Possiamo guardarlo all'interno della nostra immaginazione, quando ci immaginiamo la crocifissione di Gesù, anche quando diciamo i misteri dolorosi del rosario, no? Ecco. Allo stesso tempo, ecco, oltre a questo significato dell'innalzare proprio fisico, questa croce che viene innalzata e che attira a sé tutte le cose, c'è il significato dell'esaltazione, l'esaltazione che Dio fa di Cristo, come narra l'inno cristologico della lettera ai Filippesi che abbiamo letto nella seconda lettura. E che ci dice come San Paolo, come San Giovanni, vedono nella figura di Cristo innalzato sulla croce anche il Cristo esaltato dalla risurrezione e dall'ascensione al cielo, che penso che sia il significato profondo di tutti i crocifissi scolpiti, dipinti e venerati, anzi adorati, nella Chiesa. Quell'adorazione di Cristo che noi facciamo il Venerdì Santo, no? Baciando Gesù sulla croce ha in sé dentro anche questa esaltazione che Dio ha fatto del suo figlio. Abbiate in voi, fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre. Allora io penso che noi possiamo anche quando contempliamo Cristo crocifisso e anche quando pensiamo che in qualche modo quelle nostre punture, quelle nostre, che i serpenti brucianti hanno prodotto, in realtà ci chiamano a stare con Lui sulla croce, quindi a identificarci con Lui crocifisso, a unirci a Lui profondamente, no? Ad abbracciarlo o a ricevere l'abbraccio della croce, del crocifisso sulla croce, ecco allora con quelle braccia aperte che significano tutti entrate nel mio cuore, tutti siete chiamati ad entrare nel mio amore. Ecco allora anche quando contempliamo Cristo crocifisso possiamo possiamo provare a sperimentare la potenza del suo nome e chiamarlo Gesù e dirgli che lo amiamo e dirgli che attendiamo la sua salvezza. Gesù, salvami, Gesù, aiutami, Gesù, amami o perlomeno fammi comprendere che tu mi ami. Fammelo sperimentare. E noi sappiamo che poi c'è un terzo significato, possiamo dirlo così, della esaltazione di Cristo sulla croce, che possiamo contemplare nel leggere il Vangelo di San Giovanni, capitolo 12, versetto 32, quando Gesù prevede il suo innalzamento e accenna che, ecco, quando sarò innalzato a terra, attirerò tutti a me, no? E oggi nella messa dell'esaltazione è presente nel canto alla comunione, no? C'è un riferimento a questo Vangelo. Lo rileggiamo brevemente, no? Ecco, c'è una voce dal cielo, e dopo che Gesù dice, è vicino all'ora della croce, no? Gesù sta parlando del chicco di grano, no? In verità vi dico, e ha appena detto, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Quindi sta parlando, Gesù, tu stai parlando della tua croce come glorificazione. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Ecco là il valore salvifico della croce. Per noi è molto difficile, Gesù, per me, perlomeno io parlo per me, è molto difficile mettere insieme queste cose, la morte con la vita. Però per questo forse anche tu citi un fatto così evidente, perlomeno ai contadini, no? Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Quanto possono essere utili per noi queste parole, ma aiutaci, Signore, a comprenderle nella concretezza della nostra esistenza, senza, come dire, precomprensioni, perché a volte questo perdere la vita non significa non per sé proprio perderla del tutto, significa perdere qualche pezzetto, qualche aspetto, qualche sicurezza, per esempio. Per amare gli altri devo perdere delle sicurezze, devo vincere delle paure, e questo è perdere la vita. Se invece voglio conservare, non so, ecco, tutta una serie di sicurezze, poi dopo perdo l'occasione di amare. E se uno mi vuole servire, mi segue, dove sono io là sarà anche il mio servo. Quindi ecco, il mio servitore ci invita, Gesù, a percorrere il cammino della croce. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che bello, Gesù, è consolante sapere che tu sei turbato di fronte al dolore della croce. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Come ci conforta vedere la tua, possiamo chiamarla così, la tua lotta, Gesù, la tua umanità che fa fatica di fronte alla prospettiva del dolore e del perdere la vita. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora, come il Padre è vicino a Gesù e lo sostiene. Così il Padre del cielo sostiene ciascuno di noi perché vede in ciascuno di noi il suo figlio prediletto, nel quale il Padre si è compiaciuto. In ciascuno di noi figli di Dio, battezzati, entrati figli di Dio nel Figlio, il Padre vede il Figlio. E la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. Com'è difficile, no, capire che è il Padre stesso che ci sta vicino, che ci ama. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me ma per voi. Vedete, per voi è venuta questa voce. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Attirerò tutti a me. E noi ci ricordiamo quel dono di approfondimento della Sacra Scrittura che il Signore ha fatto a San José María, durante quella messa della festa della Trasfigurazione del 1931, quando comprese che, cioè, il Signore gli fece comprendere che in quella attrazione della croce ciascuno di noi è coinvolto, cioè gli uomini e le donne di Dio identificati con Cristo, uniti a Gesù nella loro vita cristiana, che lavorano in mezzo al mondo, che stanno in tutte le situazioni umane ordinarie, loro sono Cristo che, cioè noi, ciascuno di noi, è Cristo che attrae a sé tutte le cose. In uno studio del professor Rodriguez di qualche anno fa su questo testo di San Giovanni, diceva, parlando teologicamente, Cristo è attraente, attrattivo, in un duplice modo: prima offrendosi come oggetto allo spirito dell'uomo, poi inoltre trasformando l'interiorità del soggetto umano, dal di fuori e dal di dentro, potremmo dire, se questa non fosse un'espressione così troppo semplice. E quindi il primo modo è Gesù che attrae direttamente attraverso la bellezza e della sua persona, come accade anche, abbiamo l'esperienza umana, no? dell'attrattiva di una persona bella, buona e santa, e in secondo luogo attraverso i suoi figli, attraverso di noi, attraverso i cristiani, attrae a sé tutte le cose e tutte le persone. Certo, c'è tutta la comprensione della verità che il Signore ci ha rivelato, che Lui abita in noi, che chi mangia la sua carne e beve il suo sangue dimora in Lui e Lui dimora in noi, del fatto che inabita la Trinità nella nostra anima, e insomma tutto questo mistero bellissimo della presenza di Cristo nel cristiano, che noi siamo chiamati a meditare ancora una volta, a riflettere e a credere che Gesù si fa presente attraverso i cristiani nel mondo. E l'autore stesso di questo studio ricordava un dialogo colloquiale con San José María, in quale diceva, ecco, state con i vostri colleghi, con i vostri concittadini, coetanei, con i vostri amici, ma addirittura basta che vi lasciate conoscere da loro, che vi lasciate trattare da loro, nel senso di, ecco, di relazionare da loro, e poi Gesù fa il resto, quindi quasi non si tratta nemmeno di impegnarsi, anche se qualche volta lo faremo, a parlare di Lui. Sarà la nostra vita che parla, saranno loro a chiederci qualcosa su di Lui. E sarà il nostro spirito di servizio, sarà il nostro amore, sarà la nostra attenzione per loro, sarà il lavoro vissuto con senso di collaborazione, saranno tante piccole cose attraverso le quali Gesù si fa scoprire e attrae a sé le persone e le cose. Questo è quello che il Signore ci ha promesso e che è accaduto tante volte nella nostra vita. Noi lo meditiamo ancora una volta guardando Cristo sulla croce, chiamandolo Gesù, chiamandolo Salvatore, affidandoci alla Madonna che sta ai piedi della croce. Chiediamo a lei che ci aiuti un po', ecco, attraverso la grazia della festa di oggi, a fare così una scoperta ulteriore della bellezza, della grandezza, dell'attrattiva della croce, innanzitutto per noi e poi per tutte le persone che noi incontriamo nelle vicende della vita.